GR24, il sole 24 ore. Arrivata una rivendicazione per l'agguato da Denolfi, volantino degli anarchici spedito al Corriere della Sera. Peggiora la recessione in Italia, secondo la Commissione europea, ma non servirà una manovra aggiuntiva per il pareggio di bilancio, aumenterà il numero di disoccupati. 200 persone assaltano un ufficio di Equitalia a Napoli, aggrediti ispettori anche a Milano. Successo per l'asta dei bot, collocati 10 miliardi di euro a tassi in calo. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. È stato rivendicato l'attentato al dirigente dell'Ansaldo, Roberto Adinolfi, avvenuto lunedì a Genova. Maggiori particolari in diretta con Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. È arrivata per posta stamattina alla redazione del Corriere della Sera la rivendicazione dell'agguato al numero uno di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Il documento è stato spedito da Genova ed è firmato dalla Federazione Anarchica Informale Cellula Olga. Abbiamo azzoppato uno dei tanti stregoni dell'atomo, dall'anima candida e dalla coscienza pulita. Si legge nel documento, nel quale è citata anche una frase di Adinolfi, frase nella quale il manager aveva sminuito l'impatto ambientale dell'energia nucleare e la portata dell'incidente di Fukushima. Nel testo gli anarchici annunciano anche l'avvio di quella che definiscono una campagna di lotta contro Finmeccanica, definita piovra assassina. Questa rivendicazione è ora al vaglio degli inquirenti. Adinolfi, lo ricordavi, è stato gambizzato lunedì sotto la sua abitazione a Genova e proprio oggi è stato dimesso dall'ospedale. Sempre oggi poi quattro volantini firmati dalle Brigate Rosse e con la stella a cinque punte erano stati trovati invece a Legnano, in provincia di Milano, ma si tratterebbe soltanto di fotocopie di un vecchio volantino con il quale le BR negli anni 70 rivendicarono l'attentato all'allora direttore del TG1, Emilio Rossi. Per ora è tutto, Enrico. Grazie ad Andrea Viali. Adesso ci spostiamo a Bruxelles, dove la Commissione europea ha diffuso circa due ore fa le stime sull'andamento dell'economia nell'area europea. In quella dove circola la moneta unica, l'euro, la Commissione parla di lieve recessione per quest'anno e una ripresa nel 2013. In Italy, GDP is expected to be weak over the quello che sentite è il commissario agli affari economici Olli Rehn, ha detto che per quanto riguarda l'Italia la situazione peggiorerà, ma non servirà una manovra aggiuntiva. Altri dettagli in diretta da Bruxelles, Antonio Poglio Salimbeni, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, allora, dicevamo, forse questa è la cosa più importante, Olli Rehn ha specificato che l'Italia dovrebbe centrare il pareggio di bilancio nel 2013 senza manovra aggiuntiva. Ma sì, l'ho detto molto esplicitamente, si tratta del pareggio di bilancio in termini strutturali, questo vuol dire che si toglie dal calcolo nominale del deficit in rapporto al prodotto lordo, si tolgono gli effetti del ciclo economico, che in questo caso è negativo perché siamo in recessione, e gli effetti delle misure una tantum, quindi non c'è nessun problema. L'Italia, ha detto il commissario europeo, è in linea con le indicazioni del patto di stabilità e di crescita, cioè con la disciplina di bilancio europea. Ci sono anche buone notizie o nessun dato positivo? Per quanto riguarda l'Italia, la conferma, lo ha detto esplicitamente nella conferenza stampa Olli Rehn, che è stata perseguita nel corso della crisi finanziaria, della recessione, e continua a essere perseguita una politica prudente dal punto di vista delle esigenze dei conti pubblici. Per quanto riguarda lo scenario in cui si colloca l'economia italiana, naturalmente è stato detto che l'economia italiana cresce ancora troppo poco, ed è la vera palla al piede dell'economia, della nostra economia. Lo scenario europeo, dicevo, è dei più incerti, siamo in una recessione dolce, la verità è che lo stesso Olli Rehn ha ammesso che senza un'azione determinata dei governi per sostenere la crescita e per rendere credibile da questo punto di vista le stesse misure di austerità sociale e finanziaria, la situazione potrebbe peggiorare. Bene, grazie ad Antonio Poglio Salimbeni. E comunque, a proposito di numeri, la Commissione stima una diminuzione del PIL dell'1,4% per quest'anno e una ripresa positiva nel 2013 con un aumento dello 0,4% del PIL. Un dato anche sulla disoccupazione che tra quest'anno e il prossimo anno continuerà a crescere. Osservati speciali sono soprattutto Spagna e Grecia in Europa, e in particolare verso Atene sono rivolte le parole di due ministri tedeschi. Il rischio di contagio per gli altri paesi europei di un'uscita della Grecia dall'euro è ridotto, sostiene il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Il suo collega degli esteri Guido Westerwelle aggiunge che il futuro della Grecia nell'eurozona è nelle mani dei greci, che devono continuare con il programma di austerità che l'elettorato di Atene ha appena bocciato, pena la sospensione dei finanziamenti internazionali. La Germania fa la voce grossa, difficile dire se si tratta di dichiarazioni preelettorali, visto che domenica si vota nel Nordrhein-Westfalia, lo stato più popoloso dove vive un quarto dei tedeschi, un test importante per il cancelliere Angela Merkel in vista delle politiche dell'anno prossimo. Il governo punta tutte le sue carte sul rigore fiscale e l'inflessibilità verso i paesi debitori d'Europa, una linea che piace al contribuente tedesco. Oppure potrebbe trattarsi di una forma di pressione sui partiti in Grecia per far prevalere nella formazione del governo quelli che continueranno a sposare l'austerità concordata in cambio degli aiuti dall'estero. Può essere però un gioco pericoloso, di certo la prima reazione dei mercati finanziari mostra che non a tutti piace e che il pericolo di contagio è tutt'altro che eliminato. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. A proposito di mercati finanziari, sentiamo come vanno le cose anche su quello dei titoli di Stato. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, cominciamo proprio con questi, perché questa mattina il Tesoro si è presentato al cospetto del mercato con un'asta bot da 10 miliardi di euro, titoli con scadenza a 12 mesi per 7 miliardi, titoli con scadenza a 3 mesi per 3 miliardi. Bene, le aste sono pienamente riuscite. Gli investitori hanno chiesto molti più titoli del previsto e soprattutto la buona notizia è relativa al fatto che i rendimenti, i tassi di mercato sono scesi sensibilmente. Per il titolo a 12 mesi il rendimento chiesto dagli investitori è stato del 2,34%, dal 2,84% del mese scorso, quindi calo secco di mezzo punto percentuale. Anche su questa linea il rendimento chiesto per il bot a 3 mesi, tasso allo 0,86% dall'1,2490 di aprile. Questa situazione ha comportato anche un ridimensionamento dello spread, del differenziale di rendimento fra titoli italiani e tedeschi sulla scadenza decennale, che dopo essere partito oltre 400 punti base di nuovo è sceso sotto questa soglia. Non c'è stato un grandissimo effetto sul mercato azionario, anche se dopo una partenza più pesante Piazza Affari ha migliorato la sua giornata, è partita con un ribasso dell'1,2%, adesso perde lo 0,7%. Più pronunciato il ribasso di Parigi, -1,12, Francoforte -0,6, Londra -0,6, l'euro sul dollaro a 1,2932. È tutto. Grazie. A proposito di numeri, c'è una notizia che arriva dalla Cina, dove rallenta il ritmo di crescita della produzione industriale. In aprile l'attività delle imprese è cresciuta del 9,3% contro l'11,9% di marzo, portandosi ai minimi dal 2009. Rallenta anche l'inflazione e i prezzi al consumo sono aumentati del 3,4% in aprile contro il 3,6% di marzo. Torniamo in Italia. C'è stato un assalto, un vero e proprio assalto ad una sede di Equitalia a Napoli e un'aggressione di due ispettori, sempre di Equitalia, alle porte di Milano. Continuano le tensioni contro Equitalia. Due ispettori della società di riscossione dell'Agenzia delle Entrate sono stati aggrediti nel milanese, accaduto in uno studio di commercialisti a Melegnano, quando per motivi ancora non noti un imprenditore presente nello studio dei fiscalisti ha cominciato a prendere a calci uno dei due ispettori. Due, che sono stati malmenati, non avrebbero riportato gravi lesioni. A Napoli, in corso meridionale, invece è stata aggredita a colpi di petardo e lanci di vernice una sede dell'agenzia. Sono almeno 10 gli agenti feriti. Secondo i manifestanti, gli incidenti sarebbero scoppiati per il rifiuto dei responsabili di Equitalia di chiudere gli uffici in segno di lutto per gli ultimi suicidi avvenuti nel napoletano in seguito alla consegna di cartelle esattoriali. Per questo, contro la facciata dell'edificio, i manifestanti hanno lanciato vernice rossa e subito dopo sono state abbassate le saracinesche ed è stato vietato l'accesso al pubblico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Digos di Viterbo ha fatto irruzione nella abitazione di un piccolo imprenditore residente in un paese della provincia, che poco prima, con una telefonata alla sede UIL, aveva annunciato che si sarebbe recato all'Agenzia delle Entrate di Viterbo armato di pistola e avrebbe ucciso gli impiegati. Nuova protesta degli operai dell'ex cooperativa Vesuvio Natura e Lavoro. All'alba sei lavoratori si sono calati all'interno del cratere del Vesuvio per richiamare l'attenzione sulla situazione che li riguarda. La maggior parte dei 55 dipendenti della cooperativa è senza ammortizzatori sociali dopo che sono scadute sia la cassa integrazione che la mobilità. e una cinquantina di lavoratori della Simmi, una società che produce tra l'altro cablaggi e schermi di aerazione per treni, sono saliti sul tetto dello stabilimento di Acerra nel Napoletano e minacciano di lanciarsi nel vuoto. I lavoratori sono da tempo in cassa integrazione, la cassa scadrà il prossimo agosto e lamentano anche la mancanza di commesse da parte dell'Ansaldo Breda. Cambiamo argomento, chiudiamo questa prima parte di GR24. Una pista ciclabile da Torino a Venezia è l'idea di un gruppo di studiosi del Politecnico di Milano. Ce la racconta l'ingegnere ambientale Luca Tommasini, intervistato da Francesco Riccardi. Sarebbe una delle ciclabili più lunga d'Europa e immersa in un patrimonio paesaggistico, ambientale, storico, culturale unico, bellissimo, straordinario, insomma. La scelta del percorso è stata fatta in funzione anche dell'accessibilità via treno, che è una cosa che funziona benissimo all'estero, nelle grandi ciclabili. In questo caso, mediamente, il tracciato della ciclabile dista 6-8 km dalle stazioni ferroviarie. Ciò rende molto più facile l'accessibilità, così da Milano come da Venezia. Uno imbocca la ciclabile e può percorrere tutto il tratto da Venezia a Torino in sede riservata. Il tracciato è di 679 chilometri e in realtà molti tratti sono già pronti all'uso, sono già percorribili in sicurezza più di 100 chilometri. Il tutto richiederebbe, noi abbiamo stimato un investimento di circa 80 milioni di euro per la realizzazione. E è chiaro che la prospettiva migliore è quella di un accordo sovraregionale che concretizzi questo impegno e lo porti alla sua realizzazione. Sono le 13:12 minuti, vi aspettiamo tra poco per la seconda parte di GR24. La seconda parte di GR24, queste le notizie principali. È arrivata una rivendicazione per l'agguato al manager Adinolfi, volantino degli anarchici, spedito al Corriere della Sera. Peggiora la recessione in Italia secondo la Commissione europea, ma non servirà una manovra aggiuntiva per il pareggio di bilancio. Aumenterà però il numero dei disoccupati. 200 persone assaltano un ufficio di Equitalia a Napoli, aggrediti due ispettori anche a Milano. Successo per l'asta dei bot, collocati 10 miliardi di euro a tassi in calo. E a proposito della notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione di GR24, ovvero la rivendicazione dell'attentato al dirigente dell'Ansaldo Roberto Adinolfi, poco fa l'ANSA ha battuto una notizia che leggiamo insieme: la rivendicazione del FAI, la Federazione Anarchica, dell'attentato ad Adinolfi è considerata attendibile, lo apprende appunto l'ANSA da fonti della sicurezza. Ricordiamo che questa rivendicazione è arrivata al Corriere della Sera. Ci colleghiamo con Palazzo Chigi, dove è in corso o è terminato da poco il Consiglio dei Ministri. Buongiorno ad Alessandra Schepesi. Sì, buongiorno. 1 miliardo ai poveri dai fondi per il Mezzogiorno, questo è il piano del governo sul tavolo del Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno figurano i provvedimenti in materia di riordino dei contributi all'editoria e sulla partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite in Siria, ma come si diceva, i ministri insieme al Premier hanno anche affrontato un tema, seppur non in agenda, che riguarda il contrasto della povertà, in particolare al Sud. Si tratta in pratica della riorganizzazione dei fondi strutturali europei per il Mezzogiorno dal valore di 1 miliardo di euro, parte dei quali dovrebbe essere dirottata in favore delle famiglie meno abbienti per affrontare quella che, come sappiamo, sta diventando un'emergenza sociale soprattutto al Sud. Un piano che verrà illustrato alla stampa questo pomeriggio alle 15:30 dallo stesso Premier Monti, dal Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, per la cooperazione Andrea Riccardi e dal responsabile del welfare Fornero. E da Palazzo Chigi è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Adesso parliamo del presunto tentativo di suicidio di Bernardo Provenzano. Cosa ci faceva quel sacchetto nella cella di Provenzano, così illegale del capo mafia Rosalba Di Gregorio, a proposito del fatto di cui abbiamo parlato, avvenuto nel carcere di Parma? Bernardo Provenzano ha infilato, lo ricordiamo, la testa in un sacchetto di plastica e a fermarlo sono stati gli agenti della polizia penitenziaria. Secondo fonti del dipartimento penitenziario si tratterebbe però di una messa in scena per farsi riconoscere incapace di intendere e di volere. Sentiamo il legale Di Gregorio, intervistato da Katia Caramelli. All'autorità giudiziaria palermitana non è stato mandato nulla. Infatti faremo noi un'istanza tendente a chiedere appunto alla procura una indagine. Avrebbe potuto tentare il suicidio? La conoscenza e le condizioni di salute sono certificate da una perizia del mese scorso, fatta da un neuropsichiatra, da un neurologo e da una psicologa che l'hanno sottoposto a test ufficiali, diciamo test di Rorschach, eccetera, test di personalità e quant'altro, non è emerso né una tendenza alla depressione né alla simulazione, quindi si mettono un attimino d'accordo. Quindi secondo lei, in base alla perizia, la depressione sarebbe da escludersi, quindi il tentato suicidio anche. La simulazione anche, che cosa sarebbe successo? Ah, non lo so, anche perché non ho ancora capito quale sarebbe il mezzo con cui in teoria sarebbe stato fatto il tentativo. La mia domanda mi pare legittima, chi gliel'ha dato? Per Giovanni Battista Durante del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria è inusuale che un personaggio del calibro di Provenzano tenti il suicidio. Sentiamolo sempre intervistato da Katia Caramelli. Nell'ambito delle regole della criminalità organizzata mafiosa, un boss di questo livello che tenti il suicidio, letto come un atto di debolezza, sicuramente Provenzano non è una persona debole, a parte il suo stato di salute che noto a tutti in questo momento. L'altra ipotesi che è stata avanzata è un tentativo di simulazione, quindi le ipotesi possono essere tante, pure le condizioni di salute che lo hanno condotto a compiere un gesto consulto. Ecco. Quello che noi sottolineiamo è la prontezza di intervento della Polizia Penitenziaria che ancora una volta, nonostante le tante difficoltà, è riuscita a salvare una persona che al di là del tentativo di simulazione, ovvero che sia, comunque aveva messo in atto questo gesto. Basta ricordare che ogni anno sono circa 1100 le persone che vengono salvate nelle carceri dalla polizia penitenziaria. Com'è possibile che ci fosse un sacchetto di plastica in un regime di carcere duro? Proprio poco fa ho finito di parlare con alcuni colleghi da Roma, i quali mi dicevano che bisogna vedere che tipo di sacchetto si tratta. Per esempio c'è anche il sacchetto dell'immondizia che il detenuto tiene nella cella, potrebbe trattarsi anche di questo. Cambiamo argomento. Ieri durante i funerali qualcuno è arrivato a sputare sulla bara di Michele Iuliano, storico fondatore e amministratore della De Iule Mar, morto di infarto mercoledì durante una perquisizione della Guardia di Finanza. Questa notte è stata profanata la sua tomba. Questo perché il patron della società di Torre del Greco ha truffato migliaia di concittadini. Lucio Bondia ha intervistato Antonio Cardella, avvocato di un gruppo di obbligazionisti della De Iule Mar. Prestito obbligazionario che a dire della società regolare, quindi autorizzato, dobbiamo montare a circa 40-42 milioni di euro, oggi dal censimento fatto dalla stessa società si parla di un ammontare raccolto tra i risparmiatori che si aggira intorno ai 700 milioni di euro. I capitali venivano da un certo punto in poi versati non più con assegni intestati alla società ma alle persone fisiche e al compianto, al defunto capitano Michele Iuliano, un mondo parallelo come l'ha definito il nuovo amministratore delegato della De Iule Mar, ovvero che erano stati raccolti capitali che andavano ben oltre quelli del limite del budget consentito dalla legge e quindi confluiti poi sui conti correnti personali e non della società. Quanti sono gli obbligazionisti truffati in totale? Sono quasi 1000 i risparmiatori che si sono rivolti a noi, ma da una nostra previsione gli obbligazionisti truffati dovrebbero girarsi intorno ai 13.000, che moltiplicati per una media di 3 o 4 persone a nucleo familiare, parliamo veramente dell'intera città. Chiudiamo con lo sport, Formula 1 e pallacanestro in particolare. Buongiorno a Carlo Genta. Buongiorno a te Enrico e a tutti gli ascoltatori. Abbiamo a lungo atteso l'arrivo dei Gran Premi europei per vedere una Ferrari in forma, così ci era stato promesso. Almeno il venerdì è stato mantenuto, almeno il venerdì mattina è stato mantenuto, perché l'aria di casa del Montmeló di Barcellona fa bene alla Ferrari di Alonso, che segna il miglior tempo. Quasi 4 decimi meglio rispetto al tedesco della Red Bull, campione del mondo in carica, Sebastian Vettel, poi Kobayashi e Button. Ancora in difficoltà invece Felipe Massa, soltanto 12esimo, ma si comincerà ovviamente a fare sul serio da domani con le prove che dipingeranno la griglia di partenza su questa pista. Ci aspettiamo dunque una Ferrari competitiva. Sono giorni di auto, ma sono anche giorni di grande basket, di cui parleremo più tardi in Palaspicchi, perché ad Istanbul c'è la Final Four di Eurolega, la Coppa dei Campioni dei Canestri, oggi le prime due semifinali, Panathinaikos CSKA Mosca e Barcellona Olympiacos. Ovviamente guardiamo gli altri, ma sarà un grande spettacolo, Enrico. Bene, grazie Carlo, ci sentiamo quindi alle 14 con Palla a Spicchi dopo il giornale radio. Questa edizione è stata curata e condotta da Enrico Paglierini, che vi saluta, vi auguro una buona giornata. Grazie anche a Filippo Aureggi, che si è occupato della parte tecnica. Il GR torna alle 14.